Ecco, mi rode il desolato luogo, ove si accendeva superbo un castello, in cui le brame ebbe selvaggio sfogo, finché fu soltanto morte, lo stesso. Regnò su questa terra, ora langue, da un furor di potere fatto sano, un guerriero. Un guerriero, trono cui trono fuori sangue, ma il trionfo del male, ma il trionfo del male non è sempre vano.